Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche, cari amici e buon Natale a tutti naturalmente. Oggi vi propongo, vista la circostanza, un romanzo natalizio che ha per protagonista una statuetta, anzi per meglio dire una scultura del presepio. È un magnifico presepio napoletano del Settecento, quello dal quale tratto appunto questa scultura, che è la protagonista muta del libro Lo Scurnuso, che è una parola napoletana che vuol dire il vergognoso. Il libro è di Benedetta Cibrario, pubblicato da Feltrinelli, 192 pagine, 13 euro. Dunque la statuina di questo scurnuso, di cui è autore un fantastico artista napoletano rimasto purtroppo sconosciuto, che ci accompagna dal 1792 a oggi e si trova al centro di storie, rapporti familiari diverse, ma tenute insieme appunto dal culto del presepio, un'arte che a Napoli, come sappiamo tutti, tocca dei vertici straordinari. E questo dunque diventa un libro sulla forza delle tradizioni e sulla bellezza che può sfidare i secoli quando è autentica, anche se racchiusa in oggetti apparentemente umili come appunto una statuina di presepio, e può anche cambiare, come succederà appunto in questo libro, il corso di molte esistenze umane. Ma sentiamo su questo l'autrice. Buongiorno a Benedetta Cibrario e buon Natale. Grazie e buon Natale anche a lei e a tutti. Benedetta Cibrario, dunque, la nonna napoletana è riuscita a trasmetterle il senso della bellezza e dell'importanza del presepio? Diciamo sì, che attraverso la memoria mi è arrivata una napoletanità che non è una napoletanità di chi ci vive a Napoli, ma da chi appunto l'ha assorbita attraverso la memoria, attraverso i ricordi. E nel suo libro questi personaggi che di più manifestano questa passione sono il Duca di Albaneta e il Cardinale di Belmonte. Sì, loro in realtà sono due collezionisti. A me divertiva anche di raccontare la follia del collezionista, per il quale non esiste altro oggetto d'amore, di passione, di ricerca che appunto l'oggetto della sua collezione, e che però poi in qualche modo, se è il caso di disfarsene, come nel caso del Duca d'Albaneta, alla fine causa di forza maggiore ci si disfa anche di quell'aspetto un po' maniacale che è la passione del collezionista, insomma. Poi però c'è anche Giovanni Scotti nel suo romanzo, che attraverso la continuità con una professione familiare che ha dovuto abbandonare esprime un grande attaccamento veramente popolare alla tradizione, e anzi per il presepe resiste addirittura alla paura delle bombe. Ma mi fa piacere che lei mi parli di Giovanni Scotti, che con sua moglie Annina sono due personaggi che mi sono molto cari, perché sono due persone che hanno forse una qualità un po' visionaria, un po' folle anche loro, di non smettere mai comunque di bollare quel che stanno facendo, no? E quindi in questo io ci vedo anche proprio una cura perfezionistica, nel senso che non è tanto importante quel che fai, ma come lo fai. E questa attenzione quasi maniacale per il presepio diventa per lui una fuga o un argine nei confronti della realtà, una realtà drammatica appunto segnata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale? No, è il fatto che talvolta la routine ci ricorda che in realtà in qualche modo comunque il mondo va avanti, no? Diventa una sorta di disperata resistenza, come se la quotidianità, il far bene il tuo lavoro in qualche modo incurante quasi di quello che ti sta accadendo attorno, quando non puoi far molto, perché quando sei sotto le bombe durante una guerra non puoi far altro, e forse è un aspetto un po' folle, ma in qualche modo è anche qualcosa che ti tiene ancorato al tuo quotidiano, ecco, che ti tiene ancorato alla vita. E infatti lei poi chiude proprio un capitolo del libro in cui si parla di quel periodo della vita di Giovanni Scotti, scrivendo che ogni cosa, anche la più effimera e fragile, chiede di essere eterna, e quindi anche il presepio e anche la passione di Scotti risponde a questa esigenza. In realtà tutto ciò che ci circonda, in realtà non è soltanto l'aspirazione all'eternità, in qualche modo il desiderio di eternità è qualcosa che non è soltanto molto umano, ma in qualche modo noi lo trasformiamo, lo trasferiamo anche agli oggetti, che è un po' in realtà un coltivare anche la memoria del passato, perché per progettare il futuro ci serve anche la memoria del passato. Ecco, concludiamo col presepio. Lui a un certo punto lo definisce per sua natura devozione, speranza e movimento. Ce lo vuole spiegare questa definizione? Devozione mi pare in qualche modo evidente, appunto l'aspetto devozionale e il rituale del presepe. Speranza perché è un riproporsi comunque della speranza, anche non soltanto in senso religioso ma anche in senso laico. E movimento infine perché intanto per un motivo squisitamente concreto il presepe si fa e si disfa, e quindi c'è questo via vai degli oggetti e dei pastori. Il presepe napoletano è un gran teatro in realtà, è un gran teatro della città che si mette in mostra e che si autorappresenta. E movimento perché prosegue nei secoli, quindi in senso diacronico e sincronico, movimento nel tempo e movimento nel momento, nel presente. Bene, allora buon Natale ancora, Benedetta Cipriano. Buon Natale, grazie mille. Quando ti sono venuto a pigliare l'orfanotrofio, per me eri soltanto un voto, una promessa da mantenere, una scaramanzia. Se ti trattavo bene, stavano bene i figli miei, eri in estraneo. Ma piano piano ti ho stimata. Tu sei stata la colonna, non sia te, il buon augurio della casa mia. Oggi un giorno sacro, viene la principessa Montolzo a sciogliere un voto. Teneva una bambina ammalata e ha pregato la Madonna che se gliela salvava. Ma ci piglia tutto quanto? Una ne deve pigliare, una! Facitma pigli a me, facitma pigli a me! Eccola, eccola, principe con la principessa. State buone, state buone! Avete sentito la voce di Sophia Loren nel film tratto dal romanzo di cui adesso vi parlo. Il film si intitolava Francesca Enunziata, è un film di Lina Wertmüller del 2002 con Sophia Loren, appunto Giancarlo Giannini, Raoul Bove e Claudia Gerini. E il libro dal quale è tratto si intitola Francesca Enunziata. E ve lo presento adesso per affinità, non soltanto relative al nome dell'autrice, che si chiamava Maria Orsini Natale, ma soprattutto per affinità geografica, perché anche questo è un romanzo che si svolge, se non proprio a Napoli, sulla costiera amalfitana. Si intitola Francesca Enunziata, vi dicevo, è pubblicato da Avagliano, 388 pagine, 16 euro. Questo è un libro del 1995, l'autrice nel frattempo è scomparsa l'anno scorso, e viene opportunamente ripubblicato perché si tratta di un romanzo felice, la saga di una dinastia di pastai di origini umilissime che tuttavia raggiunge un notevole benessere dovuto alla straordinaria capacità imprenditoriale del capostipite e poi soprattutto di due donne, Francesca, appunto la nipote del mugnaio che darà origine alla fortuna della casa, e Nunziata, la bambina che, come avete colto dalle battute iniziali del film, è un'orfanella adottata per adempiere un voto in una famiglia già numerosa. E sarà proprio lei l'unica a saper proseguire l'attività della madre adottiva, amareggiata peraltro dai rovesci finanziari provocati dall'inettitudine di un marito borghese, scialacquatore e vanesio. Il libro abbraccia un periodo dal 1849 fino al fascismo, è davvero, si può dire, il ritratto di un'epoca e di un mezzogiorno borghese d'attivo, capace di esportare in tutto il mondo prodotti importanti come la pasta. Sono anzi impressionate in questo libro le ultime pagine, nelle quali irrompono le ultime innovazioni tecnologiche che renderanno la pasta una semplice tecnica e non più un'arte. Sentite per esempio queste righe dal libro della Natale in cui Francesca, la capostipite, appunto quella qui da voce qui Sophia Loren, mette in guardia Nunziata su queste diavolerie tecnologiche. Accenna anche in queste righe alla sua indomita fedeltà borbonica. Stai attenta Nunzia. Ti voglio avvertire di un pericolo. Le lire, tienile da conto perché i tempi stanno per cambiare. Tu adesso stai facendo l'asciugamento meccanico. Al momento questo si fa da te e da qualche altro. Adesso per te e per loro asciugare la pasta non è più una cosa stentata. Non ci vogliono più 8 giorni d'estate e 20 d'inverno e vi trovate avvantaggiati assai. Ma se non ci vuole più il sole, il clima di Padre Eterno che teniamo noi, se i maccheroni si possono fare in qualunque paese, se li possono fare pure i piemontesi, allora per noi è finita, perché quelli sono sistemati, sono esatti e precisi, si fanno tutti i conti, fanno le cose con giudizio. No, avviene tenne, come facciamo noi? Un cunto definisce la Natale il suo libro, cioè un racconto fantasioso e incantato, e lo stesso termine usa Pietrangelo Buttafuoco nel suo ultimo libro, Il lupo e la luna, pubblicato da Bompiani, 200 pagine, 18 euro. Questa è la storia di Scipione Cicala, un ragazzo messinese di nobile famiglia, fatto prigioniero dei musulmani, rinominato Cicalazadeh, diventato ben presto capo della flotta e poi delle truppe del sultano, che gli affida delicatissime missioni militari. Il successo non fa dimenticare al protagonista la Sicilia, Messina, la famiglia e soprattutto la madre. La Sicilia, Cicala non mancherà di saccheggiarla più volte. Il ricordo della madre e della casa lo porterà prima a un'incursione clandestina nel palazzo, poi a un incontro, per così dire, ufficiale. La madre in effetti continua naturalmente ad amarlo, nonostante che lui sia uno sterminatore di cristiani, e ne è orgogliosa, pur affidando all'altro figlio l'incarico di combattere il fratello, il rinnegato. In ogni caso, nota, avrà un figlio vincitore. Un conto, dunque, questo di Buttafuoco, ispirato a un personaggio storico vissuto nella seconda metà del XVI secolo, famoso in tutta Europa per la sua abilità, ambizione, crudeltà e anche per i suoi contorcimenti diplomatici, che lo resero un personaggio ideale per le vicende cantate dai cantastorie siciliane. E uno di questi, Don Micio Palermitano, aveva incontrato appunto Buttafuoco, come scrive lui stesso, in una ventosa giornata del 1968 a Donna Lucata. Quel cantastorie raccontava appunto l'epopea di Cicalasadè, sul quale anni dopo Buttafuoco avrebbe ritrovato un libro che gli ispira questo romanzo. Emerge un affresco fiabesco del Mediterraneo del Cinquecento, un mare di scontri feroci, di guerre di religione autentiche, di ambizioni sfrenate, di diplomazie sottili, ma anche di lampeggianti rivoluzioni culturali, magari solo in embrione, come quella sognata da Tommaso Campanella, l'autore di un'utopistica Città del Sole, al quale Cicala consente di fondare un embrione di questa modello ideale, chiamato appunto Calabria, proprio a Istanbul. Ecco allora alcune righe tratte dal libro proprio sulla descrizione che il Campanella fa del suo stato ideale. E descrisse al comandante degli ottomani il proprio universo. Parlò della filosofia e dei suoi concetti. Declamò un madrigale e poi un sunto logico. Lo assordò di enti, essenze e idee nobili e altissime. Disse dell'opera divina che si contrappone alla magia diabolica. E parlò di Atlantide, di Platone e di Utopia. Ma soprattutto volle portarlo dentro il suo sogno immane, fatto di un sole assiso in alta campagna, collocato sopra un colle. E quel che dipinse con la sua favella fu quel monte e la città che vi era adagiata. E poi ancora gli spiegò come, fuori dalle radici di quell'altura, ci fossero sette gironi edificati a specchio con i sette pianeti, e quattro strade poi, e quattro porte infine, quattro angoli di mondo dove pregare e ascoltare le leggi emanate da un principe reggitore, nominato Sole, o metafisico, il sovrano che tiene sotto di sé i suoi ufficiali. L'astrologo è un ufficiale chiamato per comprendere le stelle e gli universi, senza perciò costringersi a negare gli antipodi. Il cosmografo è un ufficiale voluto per misurare il globo e la completezza dei cieli, senza perciò negare gli antipodi. Il geometra è un ufficiale imposto per segnare le grandezze degli edifici e delle fondamenta, senza perciò negare gli antipodi. Il loico è un ufficiale desiderato tra i pregiati segni del senno per spargere di ragionamenti l'armonia e il caos del mondo, senza perciò negare gli antipodi. Il retorico è un ufficiale acclamato per ornare di modi e gradi le argomentazioni, senza perciò negare gli antipodi. Il grammatico è un ufficiale apprezzato per architettare gli invisibili fili della parola e del suono, senza perciò negare gli antipodi. Il medico è un ufficiale tenuto in gran conto, perché solo lui può dare dignità di grandezza alla corporea salma, senza perciò negare la resurrezione. Il fisico è un ufficiale le cui fatiche sono studiate perché ogni ente è immortale, e sempre muta, e non s'annichila, senza perciò negare gli antipodi. Il politico è un ufficiale atteso affinché ammaestri colui che è chiamato a custodire la città, perché non è re chi ha regno, ma chi sa reggere e negare fin anche gli antipodi. Il morale è un ufficiale il cui incarico sarà necessario quando sarà aperto il sacramento del sacro fiume dell'oblio, così da averne almeno uno che ricordi la morale, senza perciò negare gli antipodi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ancora buon Natale. Naturalmente il Natale può essere ricco di tante sfumature, per esempio potrebbe essere un Natale ricco di suspense, almeno quello che ci propone Sellerio, Un Natale in giallo, 322 pagine, 14 euro. Troviamo qua sette autori ben noti agli appassionati che sono alle prese con un giallo ambientato appunto a Natale, quindi i testi sono di Francesco Recami, Alicia Jimenez Bartlett, Santo Piazzese, Carlo Flamini, Gianmauro Costa, Marco Valvaldi, Ben Pastor. Per tutti i protagonisti di questi racconti gialli, il Natale è una dura prova, scrive la nota introduttiva. Non perché ci sia da risolvere un caso, ma perché, scrive sempre questa nota, la dimensione e l'atmosfera del Natale si pongono come un perfetto laboratorio di osservazione. Per qualche tempo l'ordinario è naturalmente sospeso, i ricordi si affollano e si incontrano gli intimi, la socialità obbligata mette a nudo le idiosincrasie meno appariscenti. Nasce la malinconia. E sentiamo per esempio da questo libro due approcci completamente diversi al Natale. Quello di Maria, la cinese, nel racconto di Carlo Flamini, che conquista il rispetto delle tradizioni natalizie, e quello invece dissacrante di Enzo Baiamonte, la creazione di Gian Mauro Costa. Quando viveva in Cina, Maria non sapeva con precisione in che cosa realmente consistesse una religione. La rivoluzione aveva fatto piazza pulita di bonzi, mandarini, chierici e monaci, e per la sua famiglia era cambiato ben poco. Poveri erano e poveri erano rimasti. Arrivata in Italia, la decisione di abbracciare la fede cattolica aveva cambiato completamente la sua visione del mondo. Maria aveva avuto una vita molto difficile. Non c'era nella sua mente un solo ricordo con qualcuno dentro che sorridesse, solo sacrifici e rinunzie, rinunzie e sacrifici. La religione alla quale si era consegnata, forse l'ultimo atto consapevole della sua vita che avesse a che fare con la speranza, le aveva aperto la porta su un mondo che le era subito sembrato felice e spensierato, che festeggiava persino i sacrifici dei suoi martiri, che le prometteva una bellissima vita dopo la morte, dove le persone cantavano tutte insieme nei templi che odoravano di incenso. Rispettare le tradizioni, capire il significato dei riti festivi, era diventato per lei motivo di allegria e di gioia. Ed era soprattutto il giorno di Natale, il compleanno di Dio, che meritava di essere festeggiato secondo la tradizione. E la cosa più importante di quella tradizione, di questo era ormai assolutamente certa, era la grande cena di mezzanotte. Minchia, che camorrea! La filosofia di Enzo Baiamonte sul Santo Natale si riassumeva in quest'unica fulminante riflessione. E non si poteva dire che ci fosse arrivato con la maturità dei 50, perché anche nell'età dell'incantamento infantile i suoi pensieri erano minchia in meno e camurria in più, gli stessi. Una camurria doppia perché in primis sua madre si ostinava, ogni immacolata, a tirar fuori dal ripostiglio lo scatolone del presepe pieno di muschio rinsecchito, cassette di cartapesta e tutti i personaggi annessi e connessi, e lo costringeva a passare un pomeriggio intero a realizzare con lei il paese di Gesù bambino sul ripiano della credenza e ad ascoltare le stesse inesorabili battute. «Enzuccio, non è vero che lo scimunito del paese è preciso a Totino quello che porta il pane?» Puntualmente, allo scoccare della mezzanotte della vigilia, sua madre andava a sistemare nella stalla, accanto alla Madonnuzza, dopo averlo baciato, il pupino di Gesù. E puntualmente, durante la notte o di prima mattina, suo padre, il ferroviere, glielo andava a nascondere. Un Natale particolare è anche quello che ha per protagonista Sherlock Holmes, che troviamo in un'altra serie di racconti, questi apocrifi, cioè non scritti da Conan Doyle, ma comunque autorizzati dall'erede Jean Conan Doyle. Sono contenuti nella raccolta Un Natale in Holmes, pubblicato da Gargoyle, 324 pagine, 16 euro, tradotto da Bernardo Cicchetti. Gli autori di questa raccolta sono dei noti giallisti inglesi e americani che hanno spesso dato vita a serie poliziesche, e qui si misurano questi autori con l'impresa di rendere l'atmosfera dei romanzi di Conan Doyle. I risultati sono discontinui, ma l'effetto finale gradevole ci permette di cogliere qualche aspetto inconsueto anche della personalità di Sherlock Holmes, che qui troviamo anche alle prese con un caso italiano che si svolge a Roma, dove Sherlock Holmes è andato a svernare. Natale e i giorni successivi è un periodo che si presta anche a ritornare a leggere qualche classico, e ve ne voglio presentare uno molto importante del Novecento, Alfaro di Virginia Woolf, pubblicato da Sé, 248 pagine, 16 euro, tradotto da Nadia Fusini. Questo libro è accompagnato da una postfazione che rappresenta un'ottima guida alla lettura di questo famoso romanzo del 1927, forse il più famoso romanzo della Woolf e certamente uno dei più importanti del secolo scorso. Un romanzo, scrive qui la Fusini, che è grande perché dà l'emozione della verità che sempre ci donano le grandi esperienze in qualsiasi mezzo si compiono. E dunque questo libro, che è accompagnato anche da una serie di immagini molto interessanti sulla vita di Virginia Woolf, è un'ottima opportunità per riaccostarci a questo grande classico. Questo classico inaugura una nuova collana delle edizioni SE che si chiama Assonanze, nelle quali troviamo un altro grande testo della poesia, questa, La rima del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge, il grande poeta vissuto tra il 1772 e il 1834, tradotto da Giovanni Giudici, 186 pagine, 16 euro. Si tratta di una ballata, come ricorderete, di poche pagine, che tra l'altro qui troviamo anche nel testo originale inglese, che dà voce, spiega in una nota finale Massimo Bacigalupo, a una coscienza sballottata nell'inconoscibile e che fa di questo testo uno dei grandi classici della poesia dell'Ottocento. Se invece volete immergervi in una bella biografia, vi segnalo una delle grandi figure della classicità, l'imperatore Adriano, che ci viene presentato nel libro intitolato appunto Adriano di Yves Roman, pubblicato da Salerno, 466 pagine, 26 euro, tradotto da Marianna Matullo. Adriano fu un personaggio complesso che oggi gode di una fama assai migliore di quella che lo accompagnò in vita. Era detto un Greculus, così chiamato per scherno anche da alcuni suoi detrattori, perché amava la follia, la cultura ellenica, che voleva a tutti i costi sposare e rendere compatibile con la civiltà romana. Questo amore di Adriano determinò appunto la fusione definitiva tra la civiltà greca e la civiltà romana, una fusione di cui troviamo espressione in grandi monumenti come la villa di Tivoli o il mausoleo che poi è diventato il Castel Sant'Angelo. Naturalmente Adriano è diventato immortale anche grazie a Margherita Yourcenar, della quale l'autore vuole qui seguire il metodo e ricorda infatti a Roma alcune parole sul metodo che aveva seguito la Yourcenar per avvicinarsi ad Adriano. Imparare tutto, leggere tutto, informarsi di tutto e al tempo stesso applicare al proprio fine gli esercizi di Ignazio di Loyola o il metodo dell'asceta indù, che si estenua anni ed anni per mettere a fuoco con maggior precisione l'immagine che ha creato sotto le palpebre chiuse. Attraverso migliaia di schede, per seguire l'attualità dei fatti, cercare di rendere a quei volti marmorei la loro mobilità, l'agilità della cosa viva. Così la romanziera, lo storico segue lo stesso metodo e quindi compie una minuziosa indagine su tutte le fonti per cercare di risalire ai tratti autentici della personalità di Adriano e al ruolo che l'imperatore giocò nella stessa Roma e nel mondo. Un ruolo che secondo l'autore fu quello di aver riorganizzato completamente l'impero accentrandolo intorno alla figura dell'imperatore. Chiudiamo il 2011 con una ricostruzione di un anno particolare, l'11 di 100 anni fa, ripercorso nel libro di Lorenzo Benedusi e Simona Colarizzi, 1911 calendario italiano, è pubblicato dalla Terza, 290 pagine, 18 euro. Perché viene scelto proprio l'anno? Perché anche il 1911 fu un anno speciale per il cinquantenario dell'Unità d'Italia, che allora venne celebrato in maniera certo più pomposa di quanto abbiamo fatto noi nell'anno che si sta per chiudere. Proprio in quell'anno, ricordiamo, fu inaugurato il monumento a Vittorio Emanuele a Roma, il famoso Vittoriano. Quella di 100 anni fa era l'Italia di Giolitti, agitata da grandi divisioni politiche, ma che aveva imboccato la strada di un cambiamento importante dal punto di vista economico e sociale, di cui si vedevano i frutti nella crescita demografica, nella diffusione dell'alfabetizzazione, nel miglioramento delle condizioni sanitarie. Tutti cambiamenti che naturalmente alimentavano anche i germi dei grandi conflitti che sarebbero esplosi di lì a poco, non soltanto a livello politico ma anche a livello sociale. Di quell'anno, in qualche modo fatale, viene quindi presentata la storia in questo libro attraverso una raccolta di articoli significativi apparsi sui giornali dell'epoca, con alcune delle firme più famose di allora, da Croce Einaudi, da Malagodi, Olindo a Turati. Gli articoli sono raggruppati in vari capitoli, sulle celebrazioni del giubileo, sulla politica, sulla questione meridionale, sulla condizione delle donne, sulla cronaca nera del tempo, sulla cultura e sui prodromi della guerra di Libia. Ne emerge un paese vivace e tutt'altro che conformista, capace anche di esprimere riserve, anche allora, sulle celebrazioni in corso. Per esempio, sentite queste righe di Achille Pellizzari, in una sorta di lettera aperta pubblicata sul Giornale d'Italia e rivolta proprio al presidente del Consiglio dell'epoca, Giovanni Giolitti. Certo, se l'anniversario semisecolare si fosse potuto far coincidere col compimento di taluna di quelle grandi opere che consacrano nei fatti l'opera delle grandi nazioni, noi altri, che siamo meno chiacchieroni di quel che di solito si creda e che cominciamo ad amare nelle leggi e nella vita il bene concreto, a quel modo lo amano da gran tempo i nostri fratelli dal 41esimo parallelo in su, noi altri avremmo forse con più fervore di consentimento partecipato alle feste nazionali. Se, per esempio, assieme col monumento a Vittorio, che abbellisce la capitale nostra, si fosse potuto inaugurare quel benedetto acquedotto pugliese, che ci deve dar da bere, o se nell'inaugurare le esposizioni di Roma e di Torino ella avesse potuto affermare ai rappresentanti del paese che lo Stato ha speso tutti i 525 milioni destinati fin dal 1870 alle bonifiche e che i terreni paludosi, il terribile male d'Italia, sono tutti risanati. Se questo o qualcos'altro di simile fosse stato possibile, io non so dirle con quale impeto d'orgoglio, anche soli qua giù, anche dimenticati dai grandi e piccoli comitati nazionali delle esposizioni internazionali, noi avremmo celebrato le feste di quest'anno. Il confettino. Vi presento oggi un libro per appassionare i libri di Oliver Jeffers, L'incredibile bimbo magia libri, pubblicato da Zoolibri, 20 euro. Questo è un allegrissimo pop-up, cioè un libro che si apre e a ogni pagina esplode in tante figure animate in tre dimensioni. Un libro che racconta la passione serena di un bimbo che scopre in un modo un po' rocambolesco il piacere della lettura. E naturalmente si tratta, vista appunto la forma, di un libro particolarmente sorprendente e giocoso. E con questo ringrazio ancora Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi rinnovo gli auguri più cari di Buon Natale e vi do appuntamento a domenica prossima.